Buonasera a tutti, ben ritrovati all'ascolto. Giorgio Stamatopoulos in studio, ultima parte di edizione della sera che quest'oggi dedichiamo alla presentazione di un libro, l'ultimo scritto dal professor Carlo Flamini che ci ha raggiunto in studio. Buonasera, ben trovato e grazie. Grazie, grazie a voi. E allora facciamo un rapido profilo biografico, professionale. Insomma, il professor Flamini è stato ordinario di ostetricia e ginecologia all'Università di Bologna fino a un paio d'anni fa, è attualmente membro del Comitato Nazionale per la bioetica e presidente onorario dell'AIED, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica. Siamo ormai a 1000 rotte pubblicazioni scientifiche ma anche divulgative e persino letteratura, insomma anche questo hobby. E questo libro RU486, Non tutte le streghe sono state bruciate, l'ha scritto insieme all'amico e collega Corrado Melega, altro insigne ginecologo italiano. Siamo in quel di Bologna, un libro che è molto esaustivo, molto istruttivo per addetti ai lavori, ma soprattutto per le donne, in maniera molto scientifica, ma uscendo da quella terminologia un po' arida e incomprensibile per i profani. È dunque una guida essenziale, insomma, per orientarsi in una questione che, come tante altre in Italia, è diventata subito molto politica, molto polemica, e di polemica ce n'è però anche in questo libro, nella prefazione, nella premessa aggiunta all'ultimo, lavorando proprio sulla stretta attualità. Perché insomma, dopo lunghe e annose battaglie, alla fin fine anche noi, anche le donne italiane, possono usufruire di questa pillola abortiva, come nel resto più o meno del mondo, non solo d'Europa, dagli Stati Uniti alla Cina, però con una piccola diciamo variante, che è quella decisa dal Consiglio Superiore di Sanità, il professor Flamini, che è quella che si può assumere previo ricovero ospedaliero. Giusto? E questo quello che meno di tutto il resto vi va giù. Oddio, meno di tutto, qui che non ci va giù c'è molto, ecco. Partiamo da questo però. Ecco, direi. Possiamo partire da questo perché questo è arrivato, cioè il documento del Consiglio Superiore di Sanità è arrivato proprio nel momento in cui stavamo per mandare tutto in stampa, quindi proprio l'ultimo secondo, quindi le premesse che ho scritto risentono un pochettino del fatto che sono state scritte molto rapidamente in un attimo in cui ero molto irritato. È un understatement irritato. Ho guardato bene questo documento, che è un documento molto particolare, diciamo un po' strambo. Chi si occupa di pubblicazioni scientifiche, per esempio, sa come si scrivono, no? Uno cita una cosa, dice una cosa e mette un dato bibliografico che lo conferma. Qui non c'è mai un dato bibliografico, ma ci sono 170 voci bibliografiche alla fine, mai citate nel testo. È strano. Poi le voci bibliografiche, io e Melega le conosciamo tutte, ce le siamo guardate, lette, eccetera, dicono complessivamente esattamente l'opposto di quello che dice il documento. Anche questo è molto strano. Poi c'è questa storia per cui il Consiglio Superiore di Sanità è misterioso, non è trasparente, non si può sapere che cosa si sono detti, non si arriva ai documenti, insomma, verbali delle assemblee, delle riunioni, non so, è tutto segretato. Allora io, diciamo, capirei se fosse, non so, massoneria, no? Una di queste grandi, importanti istituzioni, ma qui siamo più nel volgarotto, no? Non è massoneria. Fossero al limite private, magari molte private. Quindi, per esempio, non si è capito che cosa è successo, quanti hanno votato sì, se qualcuno si è astenuto, sembra ci sia stato un voto contrario, ma non si sa di chi è, così. Credo che molti abbiano votato sì perché un avvocato dello Stato gli ha detto: guardate che è obbligatorio votare sì, non ci sono alternative, questa è la legge. Andando a vedere che cosa dicono per giustificare il fatto di voler ricoverare le donne, intanto dico per 3 a 6 giorni, giusto, più o meno è questo? No, da un periodo indefinito, finché non hanno espulso. I 3 a 6 giorni sarebbero già stati diciamo in qualche modo un termine su cui poi ragionare, si magari poteva anche discutere, ma alcune cose. La prima: il ricovero è inutile perché tutte le complicazioni compaiono dopo il termine del ricovero, quindi stupidaggine. Seconda: c'è alle spalle un'esperienza fatta su milioni di donne che hanno interrotto la gravidanza in questo modo. Allora, che cosa si fa in questi casi? Si va a vedere che cosa hanno detto le grandi istituzioni scientifiche, le grandi istituzioni mediche, chi controlla la medicina, chi controlla la farmacologia. Cosa hanno detto? Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: non è necessario nemmeno il recovery day hospital, gli Stati Uniti non lo fanno, non ricoverano. la Food and Drug Administration, ho detto ma fate quello che vi pare, comunque la cosa ideale sarebbe tenerle in ospedale per 3 o 4 ore dopo la somministrazione della seconda pillola. L'Inghilterra, la Francia, non ci pensano nemmeno, non ricoveri, cioè non c'è nessuno che ricoveri queste donne. Perché allora ricoverarle? Per rendere più complicato, per rompere le scatole, perché così diventa più difficile, le donne si seccano. E poi succede una cosa molto importante: qual è la donna alla quale dicono guardi che deve restare qui finché non accadrà, quando accadrà non lo so, ma è necessario, così dice la legge. E qual è quella che dice resto? Tutte quante immediatamente dico ma non posso andarmene lo stesso. Sì, basta che firmi la cartella. Cosa succede però? E ho finito. Succede che nel momento in cui firmano la cartella si spezza il legame con l'ospedale, cioè la solitudine che tutti quanti invocano, oddio povere donne così sole, certo da quel momento sono sole, prima erano prese per mano, erano sotto tutela, c'era qualcuno che era responsabile per loro. La politica ha un ruolo importante in questo, facendo un parallelismo un po' spericolato, un po' azzardato, l'introduzione del reato di clandestinità, sortisce questo effetto perverso di allontanare l'immigrato, lo straniero che magari è portatore di un virus infettivo, dice io lì non ci vado perché poi insomma no, va a finir male per me. Ecco, facendo un piccolo passo indietro, molto sinteticamente, siamo partiti dal fatto che questo libro è anche e soprattutto un vademecum, prima pillola, seconda pillola, possiamo ricordare molto brevemente come funziona? Sì, dunque qui tutto si basa l'interruzione di gravidanza terapeutica. L'interruzione di gravidanza basata sulla somministrazione di farmaci. Ecco. Nasce dalla sintesi di un farmaco che è del 1980, Beaulieu, un grande farmacologo francese. 82 cominciano le sperimentazioni cliniche, nell'84 la Francia comincia a farlo utilizzare, la casa che lo produce si spaventa, decide di ritirarlo dal commercio perché il Vaticano dice io non compro più i vostri farmaci e i cattolici non compreranno più i vostri farmaci. Il ministro della sanità francese dice no, questo è patrimonio di tutti, di tutte le donne soprattutto, e proibisce che il farmaco venga ritirato. E da quel momento comincia una sperimentazione molto ampia in molti posti. Quando arriva negli Stati Uniti nel 1990 ci sono già più di 500 interruzioni fatte, e la Food and Drug Administration ha la base per costruire, quindi quanto c'è bisogno di costruire per capire se un farmaco può essere utilizzato o no. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prende in esame il problema in vari momenti. Nel momento più recente dice va classificato come 1A, non è cosa da poco. 1 vuol dire c'è certamente un grande vantaggio rispetto agli svantaggi, A vuol dire abbiamo prove scientifiche di questo. Tutte le istituzioni che se ne occupano fanno valutazioni molto precise su che cosa bisogna fare, indicano dei tempi oltre i quali non bisogna andare. Per noi saranno 49 giorni, 7 settimane, per altri paesi sono 9 settimane. L'Inghilterra esce con delle linee guida che dicono guardate che nelle prime 7 settimane è molto più conveniente questo del raschiamento. A questo punto nascono le inimicizie, le paure, esce un libro qui in Italia di due signore, molto brave signore, che però secondo me non hanno grande competenza medica, intitolato La favola dell'aborto facile, nel quale si ciottolinea con molta forza il fatto che ci sono delle donne che sono morte. Si fa una grande confusione su questi casi, perché le donne che sono morte, e ci sono 17, da vari anni non ne muore più nessuna, ci sono altre 12 donne che sono morte ma per l'utilizzazione di questo farmaco in cose completamente diverse. Il farmaco può essere utilizzato anche per altri problemi, per esempio un carcinoma del surrene. E allora sono persone che assumono il farmaco per vivere un po' meglio gli ultimi momenti della loro vita, non si possono assimilare i due gruppi. A fare statistica, a fare numero insieme. A fare numero insieme. Insomma. Adesso, insomma, il problema è abbastanza semplice. È un farmaco utile, non può essere utilizzato da solo. Dopo 24 ore, 48 ore, adesso ci sono esperienze anche che dicono prendeteli insieme, si usa un secondo farmaco che sono le prostaglandine, e ci torniamo se vuoi dopo sulle prostaglandine. Espellere. Sì, e che prendono le donne, le nuove cittadine, per abortire fuori dall'ospedale. Insomma, questo libro non sta qui a dire che non è un inno all'aborto, no, che non è una passeggiata, non è una panacea, rimane una scelta non abbiamo, dolorosa, è un altro, e difficile, che spetta però alle donne, sì, e che devono essere messe nella migliore state che debbono scegliere e decidere. Ecco, e invece quello che è avvenuto dentro al Consiglio di Superiore Sanità pare che tutto abbia preso in considerazione tranne che questo aspetto. E allora sentiamo una breve intervista che abbiamo realizzato con uno dei membri del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Silvio Garattini, che è anche direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica del Mario Negri, e dunque vediamo un po' che cosa ci ha detto lui, che l'ha vissuto in prima persona tutta la difficile, insomma, discussione, poi questo voto finale che prevede appunto l'obbligo di ospedalizzazione delle donne che ricorrono alla RU 486. C'è stata discussione e la discussione è sostanzialmente terminata quando il giurista che era stato convocato per dare a noi una impostazione di cosa dice la legge ci ha sostanzialmente detto che non potevamo prendere nessuna decisione diversa da quello scritto nella legge, secondo cui per l'aborto bisogna stare in ospedale. Questo, diciamo, credo che sia stata una delle ragioni fondamentali per cui era difficile fare delle obiezioni. Ritengo che sia una posizione che può darsi che sia adeguata alla legislazione, ma che sia diversa da quello che succede in molti altri paesi d'Europa in cui non vi è questo tipo di restrizioni. Si fa in ospedale giustamente perché bisogna fare tutte le procedure necessarie, ma poi il paziente potrebbe ritornare a casa e sapendo che in caso di problemi c'è qualcuno che poi si occupa di lei. Questo potrebbe essere, che poi è quello che in pratica succederà. Esatto, ecco, professor Garattini. La soluzione sarà una soluzione all'italiana in cui... Ma sul piano culturale, nonché politico, non le pare un po' triste che poi comunque, insomma, ecco, si debba tenere il punto sul piano formale, ufficiale, perché c'è un contesto politico, culturale, insomma, io mi riferisco alle prese di posizione molto forti della Chiesa, quando poi appunto la donna firmerà sotto la sua responsabilità e uscirà? Questo non è un problema scientifico sostanzialmente. Certo, lo so. Quindi è un problema in cui come cittadino certo trovo anch'io molto strano che poi di fatto si trovino delle soluzioni di buon senso indipendentemente dalla legge. Non vorrei forzarle il ragionamento, ma insomma, in base a tutto quello che ci ha detto, come dire, avete agito come Consiglio Superiore un po' sotto una certa pressione? Ma diciamo che io non posso parlare per gli altri, per quanto riguarda me stesso posso dire che sono rimasto, diciamo, nell'impossibilità di prendere altre posizioni per il fatto che è stato detto chiaramente che qualsiasi altra posizione era contro la legge esistente, cioè contro la legge 194. E questo sul parere di un giurista? E questo sul parere di un giurista, un avvocato dello Stato che è venuto apposta a illustrarci la situazione. Ho capito. Senta, riferito sempre poi a quello che sarà probabilmente il seguito di questa vicenda, lei dice finirà all'italiana. Sostengono Flamini e Melega che in realtà sia la battaglia che si è condotta sulla RU 486 una battaglia strumentale per colpire la 194, che fin da quando esiste è comunque una legge osteggiata da parte della nostra classe politica e della nostra società civile, una parte del mondo cattolico in sostanza. Lei condivide questa opinione? Beh, io non lo so, perché diciamo... Cioè che il vero obiettivo sia la 194? Ma io penso che il Consiglio Superiore di Sanità agito in buona fede e anch'io penso di essere assolutamente in buona fede. Se avessi questa sensazione sarei molto sorpreso, perché non... No, io non mi riferivo alla vostra scelta, diciamo che vostra scelta è solo un segmento di tutta il grande capitolo RU 486 introdotta in Italia, insomma, questo mese più o meno. Può darsi che io non abbia una chiara visione di questo problema. Il professor Flamini è una persona che si occupa di questo problema da tantissimi anni, è una persona molto competente, quindi penso che abbia le sue buone ragioni per dire quello che dice. Io non lo so, può darsi benissimo che le cose stiano così, insomma non saprei cosa dire da questo punto di vista. Ecco, professor Flamini, lei avrà le sue buone ragioni, fa politica, che, perché ha questa convinzione, insomma, che ci sia... No, ma il problema è quello della buona fede. Io ieri ho visto una discussione fra due importanti uomini, poi stillavano buona fede tutti e due mentre si insultavano. La buona fede... In questi giorni va come il pane. La buona fede va molto, insomma. Sì, questa storia dell'impossibilità di prendere altre posizioni mi colpisce molto, insomma, si possono portare le persone, mi si dice che hanno ricevuto tutti prima dell'incontro una lettera del Presidente che diceva bisogna assolutamente arrivare a un voto unanime, io l'ho scritto sull'Unità, nessuno mi ha smentito fino adesso, vorrei che qualcuno mi smentisse perché sarebbe molto grave se fosse vero, sono voci di corridoio, l'ho scritto, sono voci femminili di corridoio, ma vengono dal loro interno, allora insomma sono cose importanti. Il problema però è proprio quello legale, se posso rapidissimamente dire che cosa è successo in Emilia-Romagna. È stato abbiamo preparato... solo tre minuti, vorrei fare anche una domanda. Va bene, faccio presto. È stato preparato un documento, sono stati chiamati dei giuristi dell'Università di Bologna, i quali hanno detto alcune cose molto semplici, hanno detto ci sono dei limiti fortissimi all'intervento del giurista su problemi che hanno a che fare col rapporto tra il medico e la paziente, che è un problema che viene in qualche modo limitato solo dal problema della tutela della salute, non c'è altro. C'è un problema che riguarda i livelli essenziali di assistenza, lo Stato può intervenire per dire questo è congruo, questo no, ma non per stabilire come deve essere dato un farmaco. C'è il problema dell'indipendenza del medico, la legge 194 non dice niente di quello che le è stato messo nei codicilli e nelle norme dal Consiglio Superiore di Sanità, dice cose completamente diverse, dice che l'aborto può essere fatto nei poliambulatori che non possono ricoverare, dice che ci aspettiamo nuove metodologie, insomma io credo che insomma al prossimo... Perché c'è tanta ideologia e così poco dato scientifico quando si affrontano questi temi nel nostro paese? Ma perché in questo momento secondo me c'è bisogno di un forte attacco a chi secondo l'opinione cattolica aggredisce la vita, a mio avviso perché si vogliono distogliere gli sguardi da altri fatti che riguardano noi cattolici e che insomma è meglio che fuggano via, che non siano oggetto di considerazione, perché veramente quelli sono i problemi scandalosi. Questo libro edito dall'Asino d'Oro Edizioni non è l'unico, proprio sta uscendo tra pochi giorni anche un altro libro che in qualche modo chiude il cerchio su tutto questo capitolo, che si intitola La pillola del giorno dopo, perché è bene anche fare una certa distinzione fra le due cose. Dal Silfio all'Evonorgestrel. Come? Dal Silfio all'Evonorgestrel. Il Silfio era una pianta che le donne romane, le donne del Mediterraneo utilizzavano per tutte le volte che avevano bisogno di ormoni. Era una panacea, quella era una panacea, e che ne è scomparsa. Cresceva intorno a Micene e non c'è più. Adesso l'Evonorgestrel dovrebbe prendersi i compiti. Questo è abbastanza interessante. Noi abbiamo riportato in questo libro l'unica ricerca che dice che la pillola del giorno dopo non impedisce l'impianto, e abbiamo scritto che chi dice il contrario e non lo dimostra portando dati scientifici è un bugiardo. Ecco, ci siamo esposti, quindi ecco, adesso mi metto seduto ad aspettare. Ha lanciato la sfida che noi raccogliamo soprattutto perché siamo ansiosi di presentare anche appunto l'altro testo, il cui editore è sempre lo stesso, l'Asino d'Oro, quindi ci risentiremo, insomma. Va bene, a beneficio dei nostri ascoltatori, per illustrare anche il contenuto della pillola del giorno dopo, se tanto mi dà tanto, insomma, sarà interessante, altrettanto interessante soprattutto nella premessa. Altra questione molto delicata. Noi ringraziamo il professor Carlo Flamini per essere stato con noi questa sera. Buon lavoro, a risentirci a questo punto. Arrivederci. E è tutto per questa puntata che chiude il ciclo della settimana per quanto riguarda Edizione della Sera, che torna dunque lunedì prossimo. Grazie a tutti per averci seguiti e un buon fine settimana.